Speciale, la politica nel tunnel. Col presidente siamo venuti sulla concorde determinazione della necessità assoluta di dare un governo al Paese e quindi si inizieranno a percorrere tutte le strade per raggiungere questo obiettivo. Grazie. Abbiamo parlato col Presidente, abbiamo convenuto che c'è bisogno di un governo prima possibile e quindi il Presidente esplorerà le strade per arrivare a questo scopo. Io mi scuso, ma non ho veramente voce. Grazie. La politica nel tunnel, buon pomeriggio da Vincenzo Miglietta. Ed Elisabetta Fiorito. Vincenzo, abbiamo sentito l'appello dei presidenti Camera e Senato, Boldrini e Grasso, dopo le consultazioni al Quirinale che sono tuttora in corso. Ecco, tu sei stata al Quirinale per noi, per Radio 24 questa mattina, noi siamo qui nella postazione di Montecitorio. Quali sono state le tue impressioni? Ma sicuramente si tratta di consultazioni sobrie, basti pensare che anche oggi il Presidente della Camera, Laura Boldrini, ha voluto dare un segnale, è arrivata a piedi da Montecitorio. In questi minuti invece sta arrivando il leader di Selvendola, sarà poi la volta della lista civica di Mario Monti, ma il Premier non sarà al Quirinale, manderà i capigruppo Mauro e Dell'Ai e comunque io sarò di nuovo lì a seguirli. C'è da notare rispetto alle altre consultazioni che non si sa proprio come potrà andare a finire. Un anno e mezzo fa, quando Berlusconi si è dimesso, il capo dello Stato, lo ricordiamo, aveva già in mano la carta Monti da giocare, ma adesso Elisabetta si naviga veramente a vista. E te lo confermo, Vincenzo, perché intanto questa mattina qui a Montecitorio il Movimento 5 Stelle ha continuato a dire di no. Oggi Beppe Grillo ha replicato al taglio annunciato ieri a Ballarò del 30% dell'indennità dei presidenti di Camera e Senato, spiegando che è troppo poco, devono tagliarsi il compenso del 50%. Insomma, anche con un certo piglio. I partiti non possono farlo, questa è la tesi di Grillo, ma voi siete stati scelti in quanto vi dichiarate estranei al sistema. L'appello quindi a Boldrini e Grasso. E sul fronte del governo quindi si continua a dire di no. Abbiamo chiesto a Riccardo Nuti, che è vice capogruppo 5 Stelle alla Camera, se è contento di quanto sta avvenendo in Sicilia, dove ricordiamo il governatore Rosario Crocetta ha abolito le province, e se si può replicare sul piano nazionale. Intanto sentiamo cosa ci ha detto sulla Sicilia. Ottimo, cioè è un risultato che abbiamo sempre ricercato e che secondo me non poteva che arrivare dopo anche quello che è stato a livello nazionale il risultato elettorale. Perché non si può replicare quello che state facendo in Sicilia a livello nazionale? Ma non è che non si può replicare, il problema è che a livello nazionale c'è questo elemento di dare la fiducia, mentre invece a livello regionale si può partire subito. E in Sicilia, voglio sottolineare, non è che c'è l'alleanza col PD, cioè perché qualcuno confonde questa cosa, il modello Sicilia non è l'alleanza col PD, che sia chiaro un po' a tutti. Il modello Sicilia è: noi abbiamo questi obiettivi e vogliamo proporre queste cose, il governo ovviamente di Crocetta propone le sue cose, se le nostre proposte o le loro, in base all'ordine in cui devono essere esaminate, sono per noi positive, le approviamo, le votiamo e così via, se sono negative noi votiamo contro, cioè è già capitato in Sicilia questo, anche il voto contro è capitato. Faccio un passaggio ulteriore. Per esempio, se il PD vi proponesse un governo di scopo in 8 punti o con quelli con cui La risposta è sempre la stessa, sempre la stessa settimana. E no. Anche perché ricordiamo come quegli 8 punti sono sempre parole e non fatti. Ma lei, come rappresentante siciliano, deputato, lei che cosa avrebbe fatto al Senato? Io avrei votato scheda bianca perché è giusto rispettare il regolamento, il codice di comportamento, scusatemi, perché a mio parere, qualunque sia l'opinione personale, se io sono in un gruppo le regole le rispetto. Ma non si tratta di espulsioni, il regolamento nostro che potete leggere sul sito prevede semplicemente che le decisioni vengono prese a maggioranza, se viene violato il regolamento, dice semplicemente che l'Assemblea riunita di Camera e Senato decide se presentare queste eventuali dimissioni o quello che si propone agli iscritti al portale. Ecco. E noi diciamo appunto che oggi che sono riuniti Crimi, il capogruppo al Senato, ha detto nessun voto sui dissidenti, quindi questa è un pochino la spina del fianco, ricordiamo per quanto è successo la scorsa settimana dove alcuni hanno votato a favore di Piero Grasso per l'elezione a Presidente del Senato. Sì, ma in queste ore, Elisabetta, è molto importante anche la posizione del Popolo della Libertà. Silvio Berlusconi preme per un accordo da fare subito con il Partito Democratico. Il Paese, questa è in sostanza la tesi dell'ex Premier, ha bisogno di un governo e da irresponsabili seguire Grillo. Sentiamo allora quanto ha detto Berlusconi a Studio Aperto. Domani io mi recherò come leader della coalizione di centrodestra dal Capo dello Stato e gli confermerò che per uscire dalla recessione e ripartire verso una direzione di sviluppo occorrono degli interventi forti, occorrono degli interventi precisi, quegli interventi che noi abbiamo indicato durante la nostra campagna elettorale e che sono oggi oggetto di disegni di legge che depositeremo la settimana prossima in Parlamento. E soltanto un governo stabile, un governo autorevole, un governo di concordia nazionale che scaturisca da una collaborazione concreta sul da farsi tra il Partito Democratico e la nostra coalizione può realizzare interventi del genere nell'interesse del Paese. Noi ci siamo dichiarati disponibili, ma Bersani e i suoi continuano ostinatamente a fare la corte a Grillo, ai grillini, ricevendone tra l'altro soltanto rifiuti e sberleffi. Davvero un teatrino, come dire, tragico, un teatrino irresponsabile di fronte ai drammi delle famiglie e delle imprese, di fronte a una crisi che richiede interventi assolutamente forti e immediati. Ecco, il PD anche auspica la formazione del nuovo governo, però non col PDL, questo bisogna dirlo. Pierluigi Bersani sarà infatti l'ultimo a vedere il capo dello Stato, Giorgio Napolitano, domani alle consultazioni e probabilmente riceverà un mandato esplorativo, non un incarico pieno, anche perché deve vedere se ha i numeri. Si prepara anche un governo con dei nomi esterni alla politica per magari ottenere un appoggio esterno con i grillini, insomma si cercherebbe al Senato di far calare il quorum se i senatori grillini magari non partecipassero alla votazione. Bizantinismi parlamentari che non so se sono propri del movimento di Beppe Grillo, ma intanto si sa, il governo si deve formare, lo ribadisce anche Luigi Zanda, capogruppo PD al Senato, che dice meglio non tornare alle elezioni. Sentiamo. Condivido assolutamente quanto hanno dichiarato poco fa, uscendo dal Quirinale, dalla consultazione, il Presidente della Camera e il Presidente del Senato. Occorre dare con immediatezza, nei tempi più brevi possibili, un governo all'Italia. I problemi del Paese sono dei problemi enormi. L'Italia deve avere un governo politico, un governo che tenga conto naturalmente dei risultati delle recentissime elezioni politiche. E contraria a compromessi, o come dicono in molti ad inciuci, anche la formazione Fratelli d'Italia, che stamattina ha incontrato il capo dello Stato. Sentiamo allora quanto ti ha detto Ignazio La Russa. Noi abbiamo riempito i muri della campagna elettorale con la scritta mai con la sinistra, mai un governo tecnico, mai un Monti bis. Rimaniamo fedele a questa impostazione anche perché abbiamo un impegno con i nostri elettori che ci hanno dato comunque un numero cospicuo di voti. Certo, se un governo dovesse nascere, e capiamo l'esigenza, non può che essere a nostro avviso che un governo di scopo, cioè un governo che ha un tempo determinato e degli obiettivi precisi. Non gli daremmo la fiducia, ma esamineremmo i singoli punti e pretendiamo che anche gli altri guardino alle nostre proposte, che sono soprattutto sull'economia, ma ce n'è una che è di sistema, cioè fin tanto che non avremo l'elezione diretta del Presidente della Repubblica alla francese, per essere chiari, la situazione di ingovernabilità in Italia periodicamente si ripresenterà con drammaticità. Ma che fate, grillini, che non date la fiducia, però appoggiate provvedimento su provvedimento? Lei è un avvocato, sa benissimo che un governo ha bisogno della fiducia. Certo, qualcun altro gliela darà, non avrà bisogno dei nostri 9 voti. Noi non gliela diamo, ma non per fare i grillini, perché pensiamo... Vi siete grillizzati? No, è Grillo che si è fratellizzato, anche se più grosso si è gonfiato come le rane. Ecco, poi La Russa ci ha anche detto no, perché noi pensiamo che il modello d'economia del PD di Vendola sia contrastante con quello di Brunetta, però noi intanto abbiamo coniato un nuovo verbo, grillizzare. Vincenzo, oramai ti diremo, ma tu ti sei mai grillizzato? Sì, sì, è vero, ci stiamo adeguando alla moda anche noi, eh. E poi tra le altre cose i grillini hanno portato un po' questa nuova moda che vanno in giro con i loro computer a tracolla per il transatlantico, no? Allora, invece, cosa succede adesso al Quirinale? Devi di nuovo risalire su al Colle perché le consultazioni vanno avanti, Vincenzo. Sì, vanno avanti. Come abbiamo detto, in questi minuti è il momento di Sinistra Ecologia e Libertà, il capogruppo migliore accompagnato dal leader Vendola. Alle 18 sarà il turno di Scelta Civica con i capigruppo Mauro e Dell'Ai. Ma il clou sarà domani mattina alle 9.30 con il Movimento 5 Stelle, con Beppe Grillo che accompagnerà i capigruppo Lombardi e Crimi, e poi Popolo della Libertà e Lega insieme, questo anche per dare un segnale, per far capire che il fronte del centrodestra non si spacca. Lo ricordiamo, si era parlato di una possibile apertura della Lega al Partito Democratico. Questo è il programma delle consultazioni di domani, che termineranno alle 18 con Bersani. E chissà come andrà l'incontro con Beppe Grillo, vorrei poter essere una mosca, chissà anche se Silvio Berlusconi si presenterà con gli occhiali da sole, perché affetto da Eueite, noi saremo qui a raccontarvelo. Buonasera da Elisabetta Fiorito e da Vincenzo Miglietta.